RadioTube Social Network. Eccoci insieme con la seconda ora del nostro RadioTube. Allora, cosa abbiamo ascoltato insieme nella nostra prima ora? Cosa abbiamo fatto insieme? Abbiamo iniziato parlando di Lucio Dalla. Abbiamo parlato con l'autore, Massimo Iondini, di un libro molto particolare che racconta gli inizi di Lucio Dalla e il rapporto tra Lucio Dalla e Paola Pallottino, i testi della professoressa Paola Pallottino, paroliera quasi per caso, che hanno aiutato Lucio Dalla ad arrivare al successo. E poi è stato con noi Piero Pelù, col quale abbiamo fatto queste foto a distanza che mi hanno fatto molto ridere. Cosa vi devo dire? Grandissimo personaggio, io sono pazza di Piero Pelù. Abbiamo dato un po' di consigli cinematografici, non per rubare il mestiere a Franco D'Assisi, ma perché al di là delle uscite cinematografiche, delle quali parleremo appunto su Radio 24 nella prossima ora, in questo periodo in cui dobbiamo stare molto a casa, possiamo anche dedicarci alla riscoperta dei classici, la cosa che sto facendo io in prima persona e per questo mi è venuta questa idea, perché ho scoperto un catalogo ricchissimo su Amazon Prime Video e così ne abbiamo parlato con Gabriele Niola e adesso con Antonino Cannavacciuolo, al quale credo vogliamo bene tutti, anche perché questa edizione di Masterchef è andata molto bene, è finita e ricominceremo con la prossima settimana con questa nuova trasmissione che va un po' sulle tavole tradizionali degli italiani. Mi è piaciuta molto questa FFF, è difficilissimo, FFF secondo me è più facile da pronunciare, perdonatemi ma io lo chiamerò così. Allora, 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, chiocciola Marta Cagnola, i miei social, Twitter e Instagram, ma abbiamo questa volta rapito come co-conduttore d'eccezione, perché noi l'abbiamo avuto al telefono qualche settimana fa e subito gli ho detto: ma ti possiamo ospitare in studio? Lui ha avuto, lo sciagurato rispose sì, e quindi l'abbiamo rapito subito. Fabio Guarnaccia, ciao Fabio. Ciao Marta, ciao a tutti. Allora, direttore di Link, idee per la televisione, del quale abbiamo parlato appunto un paio di settimane fa. Link è un periodico, però quelle cose belle, no? Che stanno poi anche in libreria, che parla appunto di televisione. Io ho la collezione perché ci sono quegli intellettuali che si occupano di esteri, che hanno, no, quelle riviste, tutte in libreria, quelli che si occupano di filosofia, che hanno io che mi occupo di televisione ho Link. E noi lo facciamo apposta. È giusto, cioè anche noi abbiamo una legittimazione intellettuale anche in questo. Però Fabio è anche direttore di una collana molto interessante che si chiama Super Tele, della quale gli chiederò qualcosa, perché l'ultimo libro si chiama Netflix Nations, geografia della distribuzione digitale. Come ci piace questa cosa della distribuzione digitale. Avremo modo di parlarne, ma in questo primo blocco abbiamo sempre i video della settimana, quindi Fabio ti faccio subito sentire questo qua. Quella è la migliore occasione per ringraziarvi tutti per essermi stati vicino, per l'amicizia, però questo è un giorno molto particolare per me, perché è una gloria che ho ricevuto e altrettanta gloria voglio trasmettere a una persona che nella vita ha creduto in me e mi ha reso la persona che sono, e voglio che questo momento sia un momento speciale. Bella proposta di matrimonio del vincitore di Masterchef al compagno, un po' televisione americana, Beh sì, gli assomigliamo sempre di più ormai alla televisione americana, non solo. E poi questi video subito super diffusi in rete. Io non dicevo virali neanche prima, figuriamoci adesso, super diffusi in rete. Cioè queste clip diventano proprio pane quotidiano dei siti web, dei quotidiani, dei blog. Non ce la facciamo, ce lo dobbiamo condividere, però ci sta. Beh sì, diciamo che buona parte del web, dei video sul web, nascono dalla televisione, che alimenta quotidianamente tutta questa massa di video ed è interessante come vengono scremati e capire che cosa interessa di più alla gente anche in questo modo. Vengono fatti anche in tempo reale nelle televisioni, in questi video, queste clip che vengono lanciate sui social appena un attimo dopo. Sì, c'è anche, come dire, una forma di autonomia da parte degli spettatori, per cui molti influencer in realtà se le fanno da soli queste certo. clip, no? Che non è del tutto legale, ma tollerato, perché appunto alimenta la diffusione di un brand di programma o comunque di un personaggio, e si costruisce un mondo anche così, no? Basti pensare, che ne so, all'enorme successo, al caso di Marco Altagirone, certo. nato in rete, sviluppatosi in TV, ritornato alla rete con una circolarità da capogiro. E ad esempio mi viene anche in mente un fenomeno come quello di Trash Italiano, che è un account molto molto famoso in rete, che prende anche delle immagini della TV e ne fa delle GIF. Ormai sappiamo tutti cosa sono le GIF animate, con delle frasette sotto che tutti usano per rispondere, le GIF di con le frasi di Mara Venier, con le frasi di Cristiano Malgioglio. Queste cose appunto magari non sono un utilizzo a volte legalissimo del materiale che è coperto da copyright, però fanno gioco, alla fine va bene così. Beh sì, guarda, dovremmo farlo un numero di link sui meme, perché di fatto ormai c'è una continuità totale ed è tutto molto, molto molto interessante, no? Anche il livello di creatività, no? Derivata da immagini e testo, una forma di creatività interessante, spesso divertente. Altre volte mi sembra che ci sfugga un po' a tutti di mano, perché non c'è confine all'ironia e al sarcasmo, però, come dire, fa parte del nostro tempo e è interessante. Allora, a proposito di nostro tempo, non è possibile non parlare di coronavirus, e oggi è successa questa cosa che insomma ha colpito tutti ed è stata annunciata così. Allora, è arrivato, anche io ho il coronavirus, ovviamente mi attengo e sarò seguito secondo tutti i protocolli che sono previsti in questi casi per tutte e per tutti, sto bene e quindi è stato scelto l'isolamento domiciliare. Nicola Zingaretti, presidente del PD, positivo al coronavirus. Ovviamente adesso succede così, che lo si comunichi con un video, rassicurando in prima persona, mandandolo in rete. Anche questo è segno dei nostri tempi. Beh sì, ho preso la notizia mentre bevevo un caffè al bar questa mattina ed effettivamente mi ha sorpreso, cioè tutti i cortocircuiti che in questi giorni stanno capitando nelle vite private di ognuno, dove a me, per dire, fino a 3 giorni fa non era capitato di conoscere nessuno che avesse il coronavirus o lo avesse avuto e fosse guarito, e nel giro di pochi giorni ne ho già individuati 3. Zingaretti non lo conosco personalmente, però è come se, nel senso che appunto è una figura pubblica, è peraltro a capo di un'istituzione molto importante, che è preposta al controllo al controllo di questa epidemia, ed è abbastanza impressionante. È una situazione chiaramente seria, e lo diventa sempre di più. Secondo me il confine tra il prendere le cose con leggerezza e farsi travolgere dalla paranoia rimane sottile, però mi sembra anche che si stia diffondendo una maggiore consapevolezza in questi giorni. Sì, e devo dire che tra i video che mi hanno colpito di più, tra quelli che si sono diffusi di più e che magari ci hanno anche mandato su WhatsApp, c'è questo di una rianimatrice che secondo me ha fatto un video estremamente efficace. Cartone per tutti. Bisogna stare a casa. Le scuole sono chiuse fino al 15 marzo. Fatevi una domanda: se le scuole stanno chiuse fino al 15 di marzo, secondo te A, è Pasqua? Non lo è, te lo dico. B, c'è un pericolo di contagio? B, accendete la B. Io voglio sapere cosa ci fa tutta questa gente in giro. C'è troppa gente in giro. Allora, ve la dico chiara, se continuate così, il numero di polmoniti che ha bisogno di rianimazione aumenta e noi non sappiamo dove metterli. È più chiaro così? È detto in modo cristallino? Se non è chiaro, riascoltatelo. La situazione è difficile. La dottoressa Barbara Balanzoni, qualcuno l'ha accusata, insomma, non si fa così. Però cosa devo dire? Io l'ho fatto mandare ai miei nipoti che, nonostante siano a casa da scuola, vogliono comunque uscire con gli amici, andare. Secondo me anche un po' di toni così possono essere. Forse il fatto che si sia diffuso così, questa chiarezza mi è sembrata abbastanza perentoria ma efficace. Sì, io rimango un po' dubbioso, nel senso che certo con alcune persone magari è utile utilizzare questi toni, poi però ci sono delle prescrizioni, delle regole da seguire, magari non usi mezzi pubblici, vai a piedi, però non puoi neanche rimanere chiuso in casa, ci sono molte persone che ne risentono tantissimo. Non so, le librerie di quartiere, parlo di librerie di quartiere perché mi è capitato di sentire degli amici che ne hanno una e sono abbastanza in difficoltà, cioè nessuno entra a comprare libri e la loro attività soffre, le librerie come altri esercizi, forse rispettando le regole, limitandosi a un saluto senza una stretta di mano, un bacio. Infatti non ci siamo stretti la mano, evitando magari mezzi pubblici, luoghi affollati, comunque un po' fuori di casa. Un po' e se qualcuno si avvicina lo guardo malissimo. Allora 17:17, poi andiamo avanti con i video, facciamo una brevissima pausa e poi saremo ancora insieme con Radio. YouTube Social Network. Allora, l'abbiamo citato con Fabio Guarnaccia, eccolo qua il video che insomma ci ha fatto porre delle domande su fin dove può arrivare l'ironia, fin dove possono arrivare i meme, ecco qua. Cette émission vous est présentée par la pizza Corona. La nouvelle pizza italienne qui va faire le tour du monde. Allora, la pizza Corona, la prima pizza italiana che farà il giro del mondo, col pizzaiolo che tossisce, grandi polemiche per questo video preso dalla TV francese, in tanti si sono arrabbiati moltissimo e secondo me è il momento di tornare a così chiederci fin dove ci si può spingere, fin dove va la satira. Ieri un altro caso un po' discusso in rete, l'attivista e regista Ai Weiwei che ha fatto la battuta: la pasta, il coronavirus è come la pasta, è stato inventato in Cina ed si è diffuso in tutto il mondo grazie all'Italia. Non l'ho trovata proprio. No, vabbè, però sai, dipende molto dal contesto. La satira, per quel che mi riguarda, può andare dove vuole. In rete, in alcuni luoghi televisivi, non in tutti, ma in rete ovunque, sui social ovunque, l'ironia è il tono dominante, cioè sono mezzi fatti così. Prendere qualcosa da lì e portarlo altrove significa dargli un altro significato. Dopodiché la geografia del contagio. Cioè, tu dici la cosa questo video della pizza, magari inserito nella trasmissione, inserito nella cosa, aveva forse un intento satirico all'interno di una trasmissione satirica, però se lo estrapoli può sembrare un'altra cosa o può caricarsi di un altro senso. Indignarsi, girano le balle anche a me a sentire una roba del genere, intendiamoci, anche perché poi appunto la geografia del contagio parla chiaramente, cioè non è che l'Italia e poi la Francia no, la Germania no, di conseguenza un problema comune, è un problema europeo, sì, ma è anche un problema mondiale. Quindi l'Italia è all'interno di un contesto che non è sicuro per nulla. Beh, anche negli Stati Uniti, tra i vari video appunto molto visti questa settimana, c'è quello della direttrice della sanità degli Stati Uniti che dice non toccatevi la faccia, e poi si umetta le dita e gira le pagine, vabbè, insomma. Ma cavoli, non è facile. No, ma sai che io mi sto rendendo conto che mi tocco tantissimo anch'io, la faccia. Anch'io. E ogni volta dico, mi sono toccata la faccia. Continuo a dire a mio figlio di non toccarsi la faccia, che poi le mani in bocca, ma anche le mani nel naso, no? Il bambino lo fa di continuo, le mani negli occhi. E però poi mi rendo conto che pure io, se non sto molto molto attento, sto lì mamma mia, veramente. Allora non sono solo io che ho questa cosa, credo che sia un problema molto diffuso. Mi legherò le mani, però vabbè, insomma, adesso ho fatto la storia su Instagram, ho cambiato con i guantini la spugnetta del microfono, l'igienizzatore, tutto. Poi magari sarò anche un po' meno nell'ansia. Adesso vabbè, io ho l'ansia a ondate, fa niente. Beh, così è anche abbastanza divertente per certi aspetti vedere come le persone cerchino in questi giorni di aprire le porte. Certo. Con delle contorsioni. E gomiti. Hai visto il saluto della Tanzania? Che qualcuno ha detto: ma facciamo il saluto come quello con i piedi. Sì, ecco, non male. Allora, parliamo un po' di televisione, perché. Cosa possiamo dire? I primi giorni era: i media hanno creato la psicosi, avete esagerato, forse non avevano esagerato così tanto, ecco. Questa settimana un altro aspetto è stato: ma devono parlare proprio tutti del coronavirus? In tanti hanno citato l'allenatore tedesco Jürgen Klopp. We have to speak about the things in the right manner, not people with no knowledge like me talking about something. People with knowledge should talk about it and should tell the people, do this, do that, do this, and everything will be fine or not. So, and not football managers. I don't understand that. Politics, coronavirus. Why me? I wear a base cap and have a bad shape. Allora, Jürgen Klopp, a un certo punto, allenatore del Liverpool, in una conferenza stampa gli hanno chiesto: cosa ne pensa? Ha paura del coronavirus? E lui ha risposto: ma perché lo chiedete a me, che io non ho nessuna conoscenza specifica in questo? Chiedetelo agli esperti. Insomma, in pratica le domande vanno fatte a chi sa rispondere in merito. Cosa ne pensi di questa reazione di Jürgen Klopp? Jürgen Klopp è un allenatore che stimo molto, è molto intelligente, e credo che abbia detto una cosa intelligente. Dopodiché, come dire, è naturale che in questi momenti non si voglia sentire parlare di altro. In ogni momento c'è un solo argomento da due settimane a questa parte, che è il coronavirus. Tutti sentono l'esigenza di parlarne. In effetti bisognerebbe controllare maggiormente l'informazione che circola, ma come si fa? Ieri mi è arrivato sulla chat della scuola questa cosa, notizia, delle chat delle scuole, la notizia peraltro governativa, con la fonte governativa, che le scuole rimarranno chiuse fino a, cos'è, il 5 di aprile, poi subito smentita. Ma se neanche, come dire, le fonti governative, apparentemente tali, sono attendibili, capisci che diventa difficile. Bisogna veramente stare attenti alle fake news, bisogna evitare, secondo me, di... cosa possiamo fare noi? Possiamo semplicemente evitare il contagio, la circolazione di quelle notizie che non sono verificate o che non ci sembrano attendibili. Cioè, cosa serve... che dovremmo fare sempre, secondo me, in questo momento ancora più attenzione. In questo momento si può toccare con mano subito e subito dopo usare qualcosa il gel sanitizzante. Si può toccare con mano l'effetto che ha il contributo che noi diamo alla circolazione delle notizie. Vero. Allora, altro argomento, no, però ancora a questo proposito, a volte parlando di coronavirus, soprattutto la televisione del pomeriggio ha talvolta la tentazione di invitare anche personaggi dello spettacolo, personaggi del gossip per fare numero. Cosa ne pensi? È una televisione che funziona così. Che diciamo, per, non, certi, diciamo aspetti, che, per certi aspetti ti può insegnare a lavarti le mani correttamente, sì, e come fare... ha fatto Amadeus con sì, lo spot, sì, sì, ma anche Barbara D'Urso, se non sbaglio, ha fatto qualcosa del genere, ormai è diventata virale. Ma... ringrazio l'ascoltatore che al 3492386666 ci ha mandato un video, ma l'avvertenza era, l'ha lanciato ieri Giuseppe Cruciani, quindi temo che non sia nella nostra, nella nostra fascia protetta, che non lo possiamo mandare in onda anche noi, quindi grazie per il video, ma temo che potrà non essere perfetto per RadioTube. Sì, anche il video di, c'è anche Barbara D'Urso che ha raggiunto il suo pubblico, ecco. Sì, possono essere utili per far veicolare delle informazioni magari legate alla vita quotidiana, che difficilmente possono trovare spazio all'interno di un telegiornale, certo, o su un quotidiano. Dopodiché è sempre la fiera delle opinioni, per cui la mia vale come la tua e quella del virologo vale tanto quanto quella di una soubrette, per cui è complicato. Allora, vorrei farti sentire un video, non è degli ultimi giorni, ha già qualche giorno, il monologo di Crozza sul coronavirus, perché già anche ascoltarlo fa veramente una grande impressione. Sentiamo cos'è successo nello studio di Crozza. È la prima volta che nella mia vita ho un pubblico di 500 seggiolini. Ma questa è una nuova situazione per me. Ma chi se l'aspettava? Fino a 10 giorni fa il più grande problema di questo paese era lo scazzo tra Morgan e Bugo. Ora non sappiamo più nemmeno se sono vivi. È la prima volta, pensate, è la prima volta che fai l'amore. La prima volta che anche nel Cantico dei Cantici si parla della prima volta che fai l'amore, la bellezza della prima volta. Scusate, mi sono inveninizzato, ed è bellissimo. Funziona, non funziona? Non lo so, non c'è un cazzo di nessuno. Cioè, queste battute che cadono nel vuoto. È la prima volta nella televisione italiana, così. Beh sì, così, in modo diffuso, assolutamente. Ieri sera guardavo il serale di Amici. E... che è un programma dove la componente pubblico è essenziale. Io ho provato a stare ad Amici, è come essere, non, io ho provato a stare nella giuria di Amici anni fa e tu non riesci a sentire nulla perché esatto, c'è un frastuono enorme. È capitato enorme anche a me di vedere una, dal vivo una puntata di Amici, e devo dire che era stranissimo, un po' come guardare una sitcom senza risate registrate. Mi sono fatto... venuta questa immagine ed è strano, da tutto, come dire, sembra l'atmosfera è più ieratica, è più seria, è tutto un po' più sospeso, devo dire anche difficile per un conduttore, perché soprattutto per un comico come Crozza, che effettivamente fa le battute e dice funziona, non lo so, non c'è nessuno. Certo, pazzesca questa cosa, eh? Cioè il comico che lo deve fare da solo in una stanza e non ha nessuno. Sì, che... per il comico ancora, in effetti è ancora più forte, ti viene meno una parte essenziale del tuo spettacolo. Secondo me questa cosa finirà un po' nei libri di storia della televisione. Ma assolutamente. Assolutamente, oltre che nelle teche. Allora, facciamo una cosa, brevissima pausa, perché abbiamo già in linea il prossimo ospite che non vedo l'ora di ritrovare, perché è già stato con noi e sono contentissima di averlo ancora a RadioTube. Vi lascio la suspense, brevissima pausa e poi saremo con il nostro... RadioTube Social Network. Buonasera e benvenuti alla seconda puntata di Amici. Salutiamo i professori e salutiamo Vessicchio e Cannito. Ragazzi, in piedi, sta per entrare la giuria e quindi iniziamo da Loredana Bertè, Vanessa Incontrada. Insomma, parte la musica, ma sentite due... perché sono solo quelli che sono nello studio. Ecco, Questo era quello a cui ti riferivi prima, appunto, per il questa televisione spettrale. Allora, sto parlando con il nostro co-conduttore d'eccezione di oggi, che è Fabio Guarnaccia, che è direttore di Link, Idee per la televisione, ma anche di questa collana super interessante, Super Tele. E io ho in mano Netflix Nations, Geografia della distribuzione digitale. Poi gli chiederò dopo la pausa di cosa si tratta. Ma abbiamo collegato con noi uno dei miei youtuber preferiti, perché dobbiamo chiedergli un po' di consigli, Rick Dufer, Riccardo Dal Ferro. Ciao Riccardo. Ciao, è un piacere essere qua di nuovo. Ciao, allora, e buonasera a tutti. Sai perché abbiamo bisogno dei consigli? Allora, dimmi. Perché tu sei uno youtuber seguitissimo per le tue lezioni di filosofia. Mm-hmm. Ci sono un sacco di professori che in questo momento hanno bisogno di imparare a fare delle lezioni online. Cioè, si trovano per la prima volta a dover spiegare qualcosa, cioè davanti a un telefonino, davanti all'occhio di una tele, a non avere davanti i ragazzi. Fabio, tu hai figli piccoli? Sì, ho un figlio di quasi 5 anni. Beh, allora non c'è ancora il problema della scuola, ecco. Ma i ragazzi più grandi, che cominciano, insomma, loro hanno cominciato a sentire addirittura il bisogno della scuola, i professori che vogliono fare lezioni. Riccardo, diamo un po' di consigli a questi professori che si trovano a dover spiegare senza la classe davanti. Beh, allora, prima di tutto, secondo me bisogna partire da un'idea poco, che la gente ha poco in testa, però molto ottimista. C'è un vastissimo pubblico lì fuori che ha un sacco di bisogno di questo tipo di contenuti, e non solo in questo periodo. C'è una larga parte di pubblico che magari ancora non sa che sul web si possano trovare contenuti di filosofia, di biologia, di chimica, di matematica, canali straordinari che divulgano ogni materia in modo professionale, divertente, e che appena scoprisse questo mondo, beh, ci si tufferebbe a capofitto. Quindi prima di tutto è sbagliata l'idea che sia una sorta di forzatura, non è vero. In realtà l'unica cosa veramente importante è capire come coinvolgere le persone, perché io quando ho cominciato a fare i video di YouTube, tieni conto che io ho fatto 10 anni di teatro, quindi quando mi sono messo davanti all'obiettivo mi sono detto, beh, cosa sarà mai? Sarà la stessa cosa di mettersi davanti a un palcoscenico, cioè davanti a un pubblico, e invece non e è così. Non è la stessa cosa. No, ho dovuto reimparare da zero un sacco di cose, perciò secondo me il primo consiglio è proprio questo: bisogna mettersi in testa di reimparare a raccontare cose che pensi di aver capito perfettamente. Io quando ho cominciato a parlare di Kant davanti a una videocamera non ho soltanto dovuto pensare a come raccontare Kant con questo mezzo, ma anche a come mescolare gli argomenti di filosofia dura e pura a un tipo di approccio che poi in realtà è molto più vicino all'intrattenimento, perché la gente si mette davanti a YouTube per informarsi, ma anche per divertirsi, e quindi c'è bisogno di reimparare le cose. Quindi se un insegnante oggi si mette in testa di fare tele lezioni, che è una cosa bellissima, una cosa molto ricca, e beh, deve mettersi in testa di reimparare. C'è una citazione che io amo moltissimo, che è di Alvin Toffler, il quale un giorno disse che gli analfabeti di questo secolo non sono coloro che non sanno leggere o scrivere, ma sono coloro che non sanno imparare, disimparare e reimparare. Ecco, siamo nell'epoca in cui bisogna reimparare un sacco di cose. Vero, anche perché secondo me questo momento di crisi potrebbe anche, non dico cambiare per sempre le abitudini, ma anche insegnarci delle abitudini nuove, ad esempio appunto capire che ci sono dei contenuti che si possono fruire anche attraverso il video. Certo. E che i ragazzi, ad esempio, che seguono i tuoi canali di YouTube, dico ragazzi perché sono i più svegli e quindi sono quelli che arrivano prima a scoprire i canali di un certo tipo, hanno già capito, cioè si può imparare molto anche aprendo questo aggeggio demoniaco che è il cellulare. Certo. Sai cosa? Secondo me io ho la speranza che da questo periodaccio riusciamo a tirarne fuori tutti qualcosa di positivo. Secondo me anche in relazione a quello che dicevate prima, in questa viene chiamata infodemia, cioè non so se l'avete usata la parola, ma è la pandemia dell'informazione, certo. Ok, questa viralità incredibile. Io spero che ci portiamo a casa l'idea di quanto sia importante tornare a scegliere i contenuti e smettere di farci scegliere passivamente da quelle cose che sono le tendenze, i trend, le cose che vanno di moda. La mia speranza è questa, che torniamo a selezionare meglio i discorsi con cui circondarci, di cui circondarci, meno passivamente, un po' più attivamente, e quindi anche, anche riuscendo in primo luogo a selezionare meglio queste informazioni, quindi essendo meno circondati da cose futili, magari, magari troppo superflue e via dicendo, ma in secondo luogo soprattutto cercando di capire meglio cosa si confà a me, cioè cos'è che posso scegliere io, cos'è che mi piace vedere, cos'è che posso scegliere. Questa è una cosa che spero impareremo. Se questo periodo di emergenza può insegnarci qualcosa di prezioso, credo che sia questo, insomma. Fabio, cosa ne pensi? È interessante questo aspetto del reimparare anche da parte di un professore, perché potrebbe essere anche finita l'emergenza o anche un nuovo tipo di comunicare con gli alunni, che magari non sostituirà, come purtroppo in questo periodo di emergenza, ma potrà affiancare anche l'insegnamento tradizionale. Ma io penso che sia essenziale e che sia appunto un linguaggio con la sua grammatica che si deve imparare. Non viene facilissimo probabilmente a chi non l'ha mai fatto prima, però appunto forse è la volta in cui i ragazzini insegnano qualcosa in modo molto concreto ai loro insegnanti. Sì. Io poi ho degli amici, gente comunque intorno ai 30 anni, che quando esce la sera torna a casa e per addormentarsi ascolta le lezioni sul Medioevo di Alessandro Barbero. Beh, sì, tipo sì, la vita sì, sessuale sì, sì, nel Medioevo. È vero, le lezioni, no vabbè, io ascolto anche appunto il Cogito di Riccardo, le lezioni sul Medioevo, il video di chimica di Dario Bressanini, oddio, anche lo sapete, i tutorial di trucco, perché mi rilassano. Vabbè, pure quello, vabbè, quelli io le youtuber di trucco me le guardo tutte, ragazzi, poi, però magari così per essere un po' autoindulgente guardo quelle americane, così dico, faccio anche un po' di ripasso di inglese, così un po' di lingue straniere, così mi alleno un po'. Riccardo, è un momento in cui forse, e questo te lo chiedo proprio da filosofo, sì, forse questo momento di sospensione servirà anche un po' a noi per riprendere contatto un po' con la nostra vita, per... No, farci... Ma guarda, io credo di sì. Io faccio l'esempio mio personale, cioè io in queste due settimane, io girando molto, facendo un sacco di eventi dal vivo, ti dico, in due settimane mi sono stati annullati 12 eventi. Avevo l'agenda piena, 12 eventi. Io sono una persona molto programmatica e quindi ho passato due giorni che ho definito giorni da ameba. Cioè ho passato due giorni in cui guardavo l'agenda che si era svuotata tutto un tratto e davvero non sapevo cosa fare. E quindi ho passato due giorni di pura pigrizia, secondando questo stato d'animo un po' passivo, e poi mi sono detto no, non ci si può, cioè non ci si può lasciare troppo andare a questo, perché è proprio il momento giusto di tenere sveglio il cervello, è il momento per ritornare a fare le piccole cose che ci danno ritmo, ci danno spessore, che può essere coltivare le relazioni più intime, può essere anche semplicemente tornare a appassionarsi, a leggere un libro, a perché no, sentire i podcast di Barbero o i video di Bressanini, insomma tornare a fare quelle cose che danno ritmo alla nostra vita intesa come individualità e interiorità, perché se aspettiamo che arrivi qualcuno a svegliarci da questo torpore è un disastro, non possiamo permettercelo, quindi il mio invito è questo: teniamo proprio adesso sveglio il cervello. Io ho discusso con molte persone in questi giorni che mi dicono è proprio questo il momento di lasciarsi andare, di non lasciarsi prendere da troppe cose da fare, sono d'accordo, ma proprio per questo bisogna tornare ad agire bene nella propria quotidianità, questa è una cosa fondamentale. Se volete un consiglio di lettura, beh, vi do il consiglio che mi ha insegnato proprio questo, che è Marco Aurelio, I pensieri di Marco Aurelio. Marco Aurelio è proprio un autore, imperatore filosofo, che ha detto continuamente questo: nei momenti di maggiore crisi bisogna tornare alla quotidianità, all'intimità e a ritrovare letteralmente se stessi. Grazie Riccardo Alferro, Ric du Fer, perché poi se ti conoscono con il tuo nome di rete non riescono a... sempre bravissimo. Allora io prometto che mi dedicherò. Io ho fatto oggi una lista di film che devo vedere, libri che devo leggere. Ottima idea, ottima idea. Sì, ho 2 giorni liberi, mica di più, perché poi da martedì rilavoro. Però, essendo in smart working, per qualche giorno la prossima settimana dovrò stabilire con chiarezza gli orari di lavoro e di non lavoro, perché sennò finisce che lavoro tutto il giorno. Infatti c'è Fabio che mi sta dicendo di sì, il problema è quello, lavorare a casa ma stabilire comunque gli orari, e così comunque prendo il mio tempo, quello che risparmio dai viaggi, per seguire tutti questi consigli. Grazie Riccardo Del Ferro, a presto. Grazie a voi, buona serata. Grazie, ciao, alla prossima. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Bello, bello, ci siamo segnati, consiglio del filosofo. Domanda invece sulla televisione, Fabio. Qualcuno ha detto sarebbe il momento, con gli studenti a casa, di cambiare magari la programmazione, un po' di programmazione della giornata su alcuni canali. Hanno parlato di tutti i canali, sia servizio pubblico che privato, ovviamente più facile, mi immagino, per il servizio pubblico, facendo anche dei programmi destinati ai ragazzi, dei programmi educativi. Secondo te è fattibile questa cosa? Boh, non lo so se i ragazzi hanno voglia dei programmi educativi, onestamente. Sì, anche secondo me. Cioè, uno youtuber che sa comunicare, forse... sono più abituati così. Boh, non lo so. Poi comunque è un sistema che è già fortemente stressato da questo momento, perché per quanto, come dire, si tenda a pensare alla televisione come un luogo fatuo, in realtà ci lavorano tantissime persone e in questo momento è in grandissima difficoltà, perché gli investimenti pubblicitari vengono ridotti se non tagliati e si fa una fatica pazzesca a tenere vive le produzioni nel palinsesto. Non è tutta una cosa così divertente, ecco, o facile. Poi davvero mi piacerebbe capire quali sono i programmi educativi. Ecco, sono proprio convinta, cioè d'accordo con te, però questa idea è stata lanciata in rete, non ma è ci così sono automatica, sempre queste idee che vengono lanciate in rete. Rivorremmo tutti a parole il maestro Manzi. Ma sì, infatti, un'altra epoca, ecco. Va bene, forse potrebbe esserci oggi qualcuno che ci insegni, come il maestro Manzi, a fare i video. Ecco, no? ecco. Allora, al volo, viabilità, perché poi mi dicono che abbiamo una sorpresa, come sono contenta, viabilità, e poi ci siamo. Radio Tube Social Network. Quella è la migliore occasione per ringraziarvi tutti, per essermi stati vicino, per l'amicizia. Però questo è un giorno molto particolare per me, perché è una gloria che ho ricevuto e altrettanta gloria voglio trasmettere a una persona che nella vita ha creduto in me e mi ha reso la persona che sono, e voglio che questo momento sia un momento speciale. Allora, la vittoria di MasterChef 9 di Antonio Lorenzon, questa proposta di matrimonio. Ma allora, quando ci sposiamo? Benvenuto a Radio Tube, Antonio! Ciao! È una sorpresa. Guarda, è veramente nata così, swhatsappandoci in diretta. Grazie Domenico di Sky, che mi ha detto: ma ti chiamo subito. Ma grazie, Antonio. Allora, la data quando? Scusa, perché... Questo dobbiamo ancora decidere. No, lo so che è importante MasterChef, la cucina, le cose, però io sono una donna romantica, quindi subito voglio sapere la data. Ancora state decidendo? Certo, siamo ancora presi un po' da questo vortice che ci sta veramente colpendo, quindi dobbiamo un attimo mettere giù, pianificare il tutto, ma a breve sicuramente lo faremo. Bello, bello. Salutami Daniel, perché è stata una cosa veramente bellissima. Antonio... Sarà sicuramente salutato. Antonio, come si vive una vittoria del genere, che è insomma una cosa che ti può cambiare la vita? Sì, beh, indubbiamente cambierà la vita, questo è fuori discussione, già me ne sto rendendo conto in queste pochissime ore che è già abbastanza cambiata. Per prima non ero nessuno mi considerava nemmeno il panettiere, ora la persona più comune per strada mi dà la mano, e quindi è bellissimo. Ma è la cosa bella che ho notato nella gente, è l'affetto che ha nei miei confronti, l'amore che dimostra a me. Quindi cosa che non avrei mai pensato, di essere così amato, così, che la gente mi seguisse così tanto per TV, veramente mi ha emozionato, mi emoziona tutti i giorni questo. Allora, dovrei farti vedere le chat di WhatsApp in famiglia col tifo per te, lo posso dire, perché allora i miei preferiti, diciamo sentimentalmente, erano, l'ho detto anche prima, Antonino Cannavacciuolo, quelli più grandi che si sono messi in gioco, cioè Vincenzo, Luciano, perché sai l'affetto di chi si mette in gioco. Però ragazzi, il cuoco era Antonio, dai. Grazie. Dai, il cuoco, quindi Costa Azzurra? E Costa Azzurra sarà un progetto che andrà sviluppato un po' più in là, perché adesso abbiamo una cosa bellissima che faremo qui a breve, che nel frattempo abbiamo già mandato avanti questo meraviglioso progetto. Apriremo un piccolo hotel qui a Bassano del Grappa, proprio nel mio paese, quindi a giugno ci sarà la possibilità di poter entrare in queste camere che stiamo preparando, in queste suite molto belle, molto carine, in un palazzo piccolino, tutto dimensione uomo, proprio molto coccolo, molto piccolo. Oh, che bello! E che cureremo direttamente noi due, quindi sarà tutto molto carino. Vabbè ragazzi, allora, a proposito sempre della nostra iniziativa di Radio 24, hashtag Io Resto in Italia, a giugno a Bassano del Grappa. Sì, Antonio, davvero, in bocca al lupo, un abbraccio a te, a Daniel, mi raccomando, facci sapere la data, che noi vogliamo sapere quando, e certo, davvero in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Io non so cucinare, quando facevate quelle robe lì, io guardavo proprio estasiata, vabbè, io c'ho ancora penso a quella roba del midollo di tonno, no, mamma mia che ricordi, no, quelle cose lì, e poi la crepinette col topinambur, capivo niente, però che bello. Grazie Antonio, in bocca al lupo, a presto. Grazie, un abbraccio a tutti. Un abbraccio. Ciao. Beh, che bello, una trasmissione che però, ragazzi, davvero cambia la vita. Beh sì, poi Masterchef è davvero un meccanismo perfetto, un meccanismo narrativo perfetto. Sì, davvero, perché c'è la competenza, però la competenza cioè quella del non professionista che però per una vita si è dedicato a una passione, il giudice che è allo stesso tempo severo, però che è disposto a riconoscere il merito, è una bella... E quanta acquolina. Mamma mia, no, ma infatti bisognava guardarlo a stomaco pieno, perché sennò o a stomaco pieno o a frigo vuoto. Perché a frigo vuoto però è una tortura. D'altronde sennò vai a saccheggiare. Allora, tempi di coronavirus, abbiamo detto anche tempi di ironia, c'è chi la fa con grazia e con stile, chi no. Io sono una grande fan di Casa Surace, cioè, tu li conosci, come ti sembrano come youtuber? Sono anche tra quelli che si sono dati e si daranno anche alla televisione, eh? Cioè è un esperimento interessante il loro. Ma sì, li seguo poco, devo essere sincero, non mi appassionano queste cose di sud verso nord, sì, eccetera, sì, no? Sì. Che è un po' un topos, è un po' uno della stile, nostra comicità, intendiamoci, nulla in contrario, ma non mi appassiona. Certo, i più bravi sono riusciti a fare cinema con risultati non eccezionali a volte, però ce ne sono alcuni molto molto bravi. Adesso staremo ad aspettare la prossima avventura dei Casa Surace. Io sono una grande fan della nonna. che ci ha spiegato quali sono i lati positivi del coronavirus. Sai che ce ne sono? È la nonna di casa Surace, ce li ha detti. Cominciamo con una cosa che mi sta molto a cuore. Col coronavirus hanno detto che noi anziani dobbiamo stare a casa e non possiamo stare vicini ai nostri nipoti. E che me ne importa a me? Ti tengo WhatsApp, Facebook, Instagram, sto facendo pure TikTok. Provate a fermarmi, Goppo Web. Secondo punto, bisogna mangiare roba calda. È perfetto. Questo è il momento mio. Vi devo fare delle parmigiane a 400 gradi. Coronavirus, me lo friggo. L'ha già fatto arruscato. Questo periodo ci hanno detto che non possiamo uscire tanto. E dove è il problema? Se a casa non avete niente da fare, leggetevi un libro. Sono quei cose quadrate dentro le pagine. Lì sicuro coronavirus non ne trovate. Date che a casa vostra libri non li aprite. Figurati se c'è il coronavirus. Ignoranti, i libri vostri sono una peste. Ho sentito che hanno chiuso le scuole, l'università. Ora voi pensate il lato positivo è che potete non andare a scuola. Invece no, il lato positivo è che potete studiare pure a casa. Gli vedrei quando riaprono le scuole. Se potete dire, professore non ho studiato, non ho avuto tempo. Se vedo che non studiate, non piglio coronavirus, ma piglio zucchero. Che carina questa, no? Forte, questa è molto, molto forte. Molto molto carina. Tra l'altro in casa Surace hanno aperto i casting perché faranno un programma di cucina sul 9, quindi li aspettiamo al varco. Tu hai detto molta più pulizia di casa in questi giorni in cui sì, sono a casa, sporco molto di più e mi sono ritrovato a pulire come un matto. Anch'io. cucinare meno, pulire come una matta. Sai perché? Perché vedo casa con le tapparelle alzate. Di solito io entro, esco ancora, la vedo di giorno e trovo un sacco di polvere, dico allora comincio con gli spruzzini. Vabbè ragazzi, è un momento così. Però allora, mi sono segnata i film che ci ha suggerito Gabriele Niola. Il consiglio letterario del filosofo Ric Dufer. Ma io questo fine settimana mi concentro su Netflix Nations, geografia della distribuzione digitale di Ramon Lobato, nella collana Supertele, diretta dal nostro co-conduttore, che è anche il direttore di Link per la televisione, Fabio Guarnaccia. Fabio, grazie per essere stato con noi. Posso dire una cosa? Di una cosa. Perché sennò poi dopo esco di qui mi picchia. Sì. Luca Barraco dirige la collana con me. Poi Luca Barra picchia te. Una persona picchia violentissima. No, però, infatti, Barra. Hai ragione. Poi ho troppa paurissima. È hai alto ragione. E violento. Sì, è verissimo. Grazie anche ad Alessandro Schiralo in redazione, a Paolo Corleoni in regia. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, sempre senza abbracci, sempre senza strette di mano, ma sempre con grande affetto. Al prossimo sabato.